Storiacce di Raffaella Calandra. All'inizio della settimana siamo stati contattati dalle autorità italiane, hanno detto che hanno ritrovato due quadri, hanno chiesto anche di mandare un esperto del museo per verificare se veramente fossero i quadri. Sono i quadri nostri. Nascoste nei sotterranei di qualche anonima abitazione o ostentate durante le riunioni dei boss, rubate e rivendute, comprate e scambiate anche con droga e armi, sono le centinaia di opere d'arte su cui le mafie nei secoli hanno allungato le mani, un tesoretto dal valore inestimabile, sparso per il mondo e solo talvolta ritrovato, un tesoro che va da vasi dell'antichità classica ad affreschi pompeiani, da tele di Caravaggio a oli di Van Gogh, come quelli spariti dal museo di Amsterdam e ritrovati in un caseggiato alle pendici del Vesuvio. La spiaggia di Scheveningen e l'uscita dalla chiesa protestante di Neuenen sono gli ultimi capolavori ritrovati di una collezione tutta particolare targata Mafia S.P.A. Una collezione che svela come l'arte sia un'ulteriore fonte di guadagno e riciclaggio dei boss e allo stesso tempo lancia interrogativi e atti d'accusa sulla difesa dei nostri capolavori dai ladri di immagini. Da qui allora parte questa puntata di Storiacce. Si calcola che l'arte, dicono alcuni, sarebbe la terza voce di introito della mafia e delle altre male organizzate dopo la droga e le armi, ed è qualcosa che dovrebbe far riflettere e anche far pensare che l'arte dovrebbe essere comunque tutelata di più ovunque, anche perché l'Italia è eccezionale e impossibile, perché l'arte si trova dappertutto, ci sarà sempre un bel crocifisso, una bella statua della Madonna o qualche palazzo gentilizio con dei magnifici ritratti rinascimentali. Abbiamo una delle più grandi collezioni del mondo e appunto la tutela mi pare che non sia mai abbastanza. Ordinano furti su commissione, finanziano scavi clandestini, proprio come ora fa l'ISIS in Siria, rivendono e investono sul mercato nero dell'arte, ma spesso hanno anche proprio un pallino, possedere ciò che gli altri possono al massimo osservare solo per qualche minuto in un museo e quindi mettere le mani su tele, sculture, oggetti di infinita bellezza senza tempo né prezzo, solo per il gusto di poter ostentare casomai nei loro angusti nascondigli da latitante o in sfarzosi ville capolavori mondiali. Dopo la droga e le armi è dunque l'arte il terzo canale di finanziamento e riciclaggio dei soldi delle mafie. Storia antica e complessa quella dei furti dei capolavori, storia di feroci boss, di ampie connivenze, di mancanza di controlli, ma pure per anni di galleristi compiacenti e di musei spregiudicati che sceglievano di non interrogarsi sulla provenienza di certe opere. È un saccheggio ormai centenario quello che va avanti in tutta Italia, nelle antiche necropoli, nelle migliaia di chiese chiuse, nelle biblioteche più o meno dimenticate. Ma quello che l'ultimo importante ritrovamento rivela è che c'erano i clan, nello specifico i clan della Camorra, anche dietro la plateale scomparsa 14 anni fa di due tele di Van Gogh dal museo di Amsterdam. Due oli ritrovati a Castellammare di Stabia in una delle case riconducibili al gruppo di Raffaele Imperiale, capo di una costola degli scissionisti, tuttora latitante a Dubai. Sentiva dire tra i collaboratori di giustizia, cioè della disponibilità della Camorra di opere d'arte trafugate da qualche museo. Questa settimana, nel corso di alcune perquisizioni mirate, abbiamo avuto a questo punto anche un po' la fortuna di rinvenire queste opere d'arte che erano occultate in un doppio fondo ed erano tenute conservate per qualche uso futuro, immagino. Questo dimostra come gli ingenti profitti che vengono determinati da questi traffici internazionali trovano poi diverse modalità di reimpiego, natura immobiliare, nei confronti proprio di Imperiale. Già a gennaio avevamo sequestrato una quarantina di villini in Spagna e in questo caso possiamo dire che la Camorra investe anche su opere d'arte del mercato clandestino. Thank you. E non è solo la Camorra a farlo, ma tutte le mafie, da sempre. Quello che infatti Giovanni Salerno, comandante del nucleo tributario della Guardia di Finanza di Napoli, racconta a proposito dell'inchiesta che ha portato al ritrovamento dei due Van Gogh è solo l'ultima conferma. La brutalità dei delitti, lo scempio dell'ambiente, l'avidità degli interessi economici e la spregiudicatezza del business possono convivere dunque con la bellezza dell'arte, o meglio, con l'intuizione che quella bellezza sia un canale assai fecondo di ricchezze. Quanto può valere infatti oggi un Caravaggio? Quanto può valere una statua greca con le sue perfette proporzioni? Prima che sparisse nel nulla, quasi nessuno a Palermo sapeva quanto importante fosse quel dipinto della Natività appeso nell'oratorio di San Lorenzo, senza alcuna protezione né cura. Lo sapeva però molto bene chi decise tra il 16 e il 17 ottobre del 1969 di farlo sparire, facendo diventare quel Caravaggio il simbolo quasi mitico a questo punto dei furti d'immagine. È bastato spingere le imposte del balconcino perché i battenti si aprissero. I due picciotti sono entrati facilmente, con le scarpe sporche e con la testa coperta da un cappello. Hanno aperto le cassette dell'elemosina, quelle dei ceri votivi, hanno frugato, fatto cadere candelabri e paramenti. Non suonava alcun antifurto. Non ci sono mai stati perché nessuno lo sapeva che c'ero io lì, appeso al muro dell'oratorio di San Lorenzo. Sono nato a Palermo. Sono nato a Palermo nel 1609, dal pennello di Caravaggio, e veglio su questa città del pianto, delle stragi, del dolore. È direttamente il dipinto che qui parla, in questo testo di Elisabetta Bucciarelli per un documentario di Rai Arte. Il dipinto che, stando al racconto del pentito Gaspare Spatuzza, sarebbe finito per essere mangiato da topi e maiali. Il dipinto qui parla con le parole come con le note dell'orchestra del Teatro Massimo di Palermo, diretta dal maestro Giovanni Sollima, il giorno in cui si volle far tornare in Sicilia la celebre tela. Evocata con la musica, riprodotta grazie alla tecnologia sulla stessa parete dell'oratorio dove si trovava, segno di riconquista dello Stato. Ma invece si chiedono alcuni se quella cornice vuota, quel suo pugno nello stomaco, non fosse di più un monito per tutti, un ricordo costante della spoliazione delle mafie e dei tanti ladri d'immagine, per dirla col titolo di un saggio di Luca Scarlini, che ricorda anche il ruolo avuto in questa spoliazione dal padre di Matteo Messina Denaro e dall'ultimo super latitante. Tra le opere che più hanno fatto discutere, che sono entrate nelle mani della criminalità organizzata, il famoso San Francesco e San Lorenzo di Palermo, rubato nel 69, è quella più ricercata al mondo, ma poi, se si apre il capitolo archeologia, è una voragine che fa paura, anche perché è notorio che le mafie Camorra, 'Ndrangheta e Sacra Corona Unita pagano dei ricercatori degli scavi clandestini, e spesso accade che negli Stati Uniti emergano delle opere di cui nessuno sa dire da dove vengano o dove siano state scavate. Uno dei casi famosi è il cratere di Ufronio, e storicamente molti personaggi della mala organizzata hanno proprio lavorato anche come tombaroli. Ad esempio, il padre dell'ultimo cosiddetto boss, ossia Matteo Messina Denaro, il padre Michele, era naturalmente un tombarolo e faceva scavi illegali. Dall'altra parte c'è anche una consapevolezza anche del valore economico, diciamo, di queste opere, e il traffico di queste opere d'arte dà in qualche modo possibilità di accesso anche a giri, diciamo, diversi, anche di business per quanto riguarda i clan. Non solo, ma si sa anche che la mafia scambia opere d'arte per droga con i clan dei narcos. È emerso in svariate interviste e dichiarazioni di pentiti, e si sa anche che la mafia e la Camorra e le altre imprese spesso stanno dietro a depredamenti anche in chiese, che naturalmente in Italia sono un altro scrigno eccezionale di arte, che anche quelle possono essere dislocate in qualsiasi punto sul territorio. Basti pensare che questa offensiva massiccia all'identità nazionale, perché poi le opere d'arte sono l'identità nazionale, né più né meno, nasce specialmente in Sicilia negli anni 60, quando la mafia si afferma fortemente, in cui i furti tra musei, chiese, incluso Caravaggio, assommano a migliaia. Quotidianamente sparivano quadri, opere di ogni tipo, opere archeologiche che soltanto in alcuni casi sono state ritrovate. Lei ha citato tra gli altri il padre di Matteo Messina Denaro, l'ultimo più importante boss tuttora latitante. Ecco, quali sono stati, diciamo, tra i boss siciliani o campani che hanno manifestato maggiore interesse per il mercato delle opere d'arte? Pare assolutamente Matteo Messina Denaro, di cui si sussurra, ma nessuno naturalmente ha una prova, che sia un grande acquirente di arte contemporanea, che la scambi e che ci faccia molte altre cose, ma anche il famoso Gerlando Alberti, detto Upaccarè, che era un capo mafioso a Palermo fino agli anni 60, che è collegato, non si è ben mai capito esattamente fino in fondo quanto al fatto del furto del Caravaggio, aveva molta passione al dono, a quanto pare, ai politici di opere d'arte di soggetto ecclesiastico rubate, tant'è che sul Caravaggio ci fu una leggenda che venne fuori nei processi dell'antimafia, perché il Caravaggio era diventato una specie di cartellino rosso con cui i mafiosi bloccavano il processo per qualche momento se erano a parlare di argomenti spinosi, e naturalmente poi veniva fuori che questo quadro non l'avevano manco mai visto, perché lo descrivevano in modo completamente diverso, con dimensioni mai viste, assurde, altissime, larghissime, bassissime. Però tutto questo portava anche a far sì che Gerlando Alberti e i suoi dicevano che addirittura l'opera sarebbe stata donata niente meno che a Giulio Andreotti, che la usava a scopo devozionale. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Storiacce. La prima istituzione italiana che viene qui a restituire, a risarcire questo luogo così violato, donandoci questa incredibile riproduzione. Per alcuni che sono stati ritrovati, tantissimi sono invece spariti nel nulla. Se del Caravaggio rubato nel 69, di cui abbiamo parlato soprattutto nella prima parte di Storiacce, ora dobbiamo accontentarci di una ricostruzione di molte altre opere, tele importanti, sculture antiche, reperti senza tempo né prezzo, non abbiamo invece più nulla, neanche una descrizione. Anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha voluto partecipare a Palermo alla restituzione, in un certo senso, grazie alla tecnologia della più celebre delle opere trafugate dalla mafia, la Natività del Caravaggio, un simbolo di tutti gli altri tesori presi dai boss che negli anni hanno voluto scavi clandestini dei tombaroli, furti su commissione in celebri musei, a volte per fare cassa nel mercato clandestino dell'arte, altre per scambiarle con droga o armi con i narcos, altre ancora per ostentarle nelle riunioni segreti dei boss a segno di potenza. Ma la storia di questa spoliazione è anche la storia di pesanti sconfitte e di qualche rivincita dello Stato, che ha ricominciato a riprendersi le sue opere, come racconta Luca Scarlini, studioso d'arte e autore di Ladri di Immagine. Le opere d'arte hanno un valore enorme e non è affatto vero che non c'è mercato, anche se sono molto note, e però ci sono anche moltissime opere d'arte che hanno comunque un grande valore, che però è soltanto nota agli addetti ai lavori, che possono essere opere di cosiddette arti applicate, banisterie piuttosto che, di cui altrettanto l'Italia è ricchissima, e anche quelle vengono commerciate senza pietà dalla mafia. Ci sono naturalmente antiquari corrotti, però ben pochi sono i nomi che sono stati fatti negli anni, che sono complici di questo traffico, e però, ripeto, ci sono molti musei che poi si rendono ancora essi complici di strane operazioni, per cui certe opere si trovano che non dovrebbero essere assolutamente nei musei dove giungono. Addirittura Thomas Hoving, che era il curatore della parte medievale del Metropolitan Museum di New York, quindi uno dei musei più importanti del mondo, nella sua discussa e famosa autobiografia Re dei Confessori, racconta di come ha, tramite la mala ligure, portato fuori dall'Italia delle sculture medievali, vantandosene addirittura di come ha ingannato i poliziotti alla frontiera con la Francia. E questo è un tema che in realtà poi riapre tutto il discorso anche dei ritorni in Italia, come accennava lei anche già prima, di celebri opere trafugate e che poi di passaggio in passaggio sono finiti anche in celeberrimi musei. L'Italia ha avuto il primo nucleo tutela dell'arte nel mondo nel 1969, dopo il furto di Caravaggio, che fu giustamente sentito come uno smacco nazionale, a quel nucleo tutela del patrimonio dei carabinieri negli anni ha messo a segno molti colpi contro le male e naturalmente ha anche debellato il fenomeno che in Italia negli anni 60 e 70 era larghissimo dei tombaroli dilettanti che facevano più danno della grandine, spesso arrecando danni terribili ai luoghi da scavare. L'Italia addirittura negli anni 60 e 70 ha prodotto delle memorie di tombaroli, ce n'è uno famoso, certo, che si chiama Perticaroli, che era dell'area laziale umbra, che ha proprio scritto un libro per vantarsi di tutti i furti che aveva fatto scavando illegalmente nella zona della Etruria, se non ricordo male. E esatto, i furti dei tombaroli il più delle volte finivano anche per distruggere anche tutto quello che c'era intorno, oltre a prendere, diciamo, oggetti soprattutto da antiche necropoli. Ecco, avviandoci verso la conclusione, l'abbiamo citato più volte il caso del famoso e ormai mitico, appunto, Caravaggio e del furto che c'è stato, che poi, come lei ha ricordato, ha portato anche a dare uno slancio al lavoro del nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri. Che cosa si può dire di questo Caravaggio? Questo furto è stato l'emblema di come lo Stato italiano in Sicilia, in quel momento, fino agli anni 60, non avesse il controllo del territorio, ma spiega anche come naturalmente la Chiesa, visto che l'opera ricadeva sotto la responsabilità della diocesi di Palermo, non fosse più in grado di controllare quel luogo fondamentale che specialmente nella storia palermitana ha avuto un peso eccezionale, che sono gli oratori. Le confraternite facevano a gara chi aveva gli artisti più importanti e intorno al Caravaggio c'è la meravigliosa decorazione in stucco delle storie di San Francesco e San Lorenzo di Serpotta, che anche quella venne rubata, e specialmente piacque quella geniale della Lussuria, in cui Serpotta rappresenta una dama palermitana di fine 600 molto procace, alcuni studiosi dicono addirittura una prostituta. Nell'oratorio non v'era tutela di nessun tipo, c'era un saliscendi rotto e le uniche persone a guardia erano due anziane dame. Gli ultimi tempi stabiliscono anche che la mafia sia entrata dopo in possesso di questa cosa e che in inizio vi fosse una richiesta invece da parte di qualche collezionista, perché l'opera è stata comunque portata via da qualcuno che era del mestiere. È stato ricostruito da svariati giornalisti, da Peter Watson, quali sarebbero stati i gruppi di potere che hanno avuto in mano quest'opera, però la verità è che dagli anni 80 non c'è nessun dato certo. Senz'altro è un'opera straordinaria dell'ultimo Caravaggio, un Caravaggio meno esplosivo, più legato a un concetto di humilitas, e ha un senso di sicuro anche per la presenza siciliana di Caravaggio, che è stata veramente martoriata, perché anche il seppellimento di Santa Lucia venne mirato dalla mafia a Siracusa in cattedrale e il furto non avvenne veramente per miracolo, perché venne sventato dalla polizia all'ultimo secondo. Quindi il Caravaggio è l'emblema del momento in cui l'Italia ha dovuto rimboccarsi le maniche per capire, far capire al mondo che davvero l'arte è la nostra ricchezza principale. Ogni tanto vengono delle segnalazioni, ancora si sono rivelate tutte flatus vocis, ecco, del nulla, e però ora nell'oratorio c'è una copia conforme fatta da un laboratorio di Madrid che è stata pagata da Sky per un documentario. Anche su questo si è molto discusso, se sia più utile avere una copia conforme a colori o se non fosse più forte tenere la cornice vuota a significare il grave scippo che tutti abbiamo subito. Quindi, diciamo, il Caravaggio, infine, nella sua anche mitologia, tanti scrittori ne hanno scritto ormai, da Sciascia a Camilleri, è veramente l'immagine di quello che l'Italia poteva fare di meglio e di quello che ha cominciato a far di meglio cercando di risanare la ferita che si era determinata. Attraverso i furti di opere, attraverso pure le storie di collezionisti spregiudicati e musei compiacenti, si riscrive anche la storia dell'antichità, soprattutto classica. Ma attraverso la cura, o la scarsa cura, di questi reperti si racconta anche la storia recente di paesi come l'Italia rispetto, ad esempio, alla difesa dei suoi capolavori. E proprio davanti ad una clamorosa opera d'arte, evidentemente, clamorosamente, evidentemente e spudoratamente trafugata, si ritrovò anche il nostro Giorgio Giordano, professore all'Università di Trento, voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Un funzionario pubblico è sotto processo per complicità con una banda di tombaroli. Saccheggiavano le tombe antiche e rivendevano i pezzi clandestinamente. Non è successo oggi, è successo nel 1100 a.C., durante il regno del faraone Ramses IX. e noi abbiamo gli atti di quel processo rimasti conservati su un papiro e possiamo leggere le testimonianze dei tombaroli che inchiodano il funzionario che era il loro complice e protettore. I tombaroli di allora raccontano: ci siamo introdotti in una tomba, trovammo l'augusta mummia del re, spogliammo la mummia di tutto l'oro che la rivestiva, prelevammo gli amuleti e gli ornamenti sui quali giaceva, eccetera. Da allora ad oggi, come capite, non è cambiato molto. Bisogna dire che non esisterebbero neppure i grandi musei, dal Louvre al British, senza la spoliazione sistematica di luoghi appunto come l'Egitto o la Grecia. Pensate solo ai marmi del Partenone. Poi certo le cose sono cambiate, oggi c'è una grande sensibilità a questi problemi. In Italia siamo riusciti, grazie a un eccellente lavoro di polizia e magistrature, a farci restituire dei pezzi importanti da musei come il Getty di Los Angeles. Il problema è che poi non sappiamo bene cosa fare. La splendida statua della Venere o Dea di Morgantina, che ci siamo fatti ridare dal Getty, giace dimenticata e visitata da pochissime persone, mentre al Getty la vedevano centinaia di migliaia di persone all'anno, nello sperduto museo di Aidone in Sicilia. 20 anni fa, mentre mi occupavo proprio di furti d'arte, un grande mercante morto da 3 anni, che si chiamava Giorgio Ortiz, mi aprì le porte della sua casa di Ginevra. Si diceva che molti dei suoi pezzi avessero una provenienza illecita. Mi mostrò un magnifico affresco pompeiano, non cercò neanche di discutere sulla sua provenienza. Mi disse: guardi, sta qui, io l'ho restaurato, è stato esposto anche in una mostra a Londra. Se fosse rimasto in Italia, che sorte avrebbe avuto? Sono domande complicate a cui è sempre difficile rispondere in un paese dove il direttore degli Uffizi guadagna più o meno quanto il custode del Louvre. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Scriveteci anche per farci avere le vostre segnalazioni alla mail storiacce@radio24.it. Ciao a tutti, a presto.